microfono per farti la foto. Non so questa azionaria. Ah, vabbè, neanche una e due, però voglio togliergliele tutte. Domani la riabbasso e le abbatto. Vabbè, Dani, controllato, Ah, no, hai visto? Bella, tu hai scritto, cazzo che bello, è bello sì, veramente bella, ma bella veramente, è nuova, hai visto come c'è il legno, lucido, bello, cazzo, bello. Vabbè, dai, Daniele, rimango in quel rix che mi metto a posto un po' di roba, stavo provando 10 microfoni, ce li ho tutti per terra, adesso li rimetto dentro l'armadio. Ci sentiamo dopo? Ok, avanti, a chi tocca, buonasera a tutti. Oh, Claudio. Dica già. Ascolta, nel mutinaggio ho trovato una scatoletta che c'erano dei quarzi, ti interessa? Roba vecchia. No, il cazzo roba vecchia, già fatto ci vedi con questa roba vecchia, boh. Mettili dentro, lasciali nella scatoletta e ci vediamo quando vuoi, domani, lunedì, non problemi. Che mi servono? Ma cazzo c'è tutte le radio io a quarzi, boh. Ma non so cosa siano neanche. Ci sono quelli di media, quei 10 mega, no, che utilizzavano. Credo che ci sia anche roba di quella. Non l'ho neanche guardato perché oramai. Vabbè, ok, dai, li metto da parte. Quando me ne ricordo poi te li faccio. Ok, già c'ho la tabella io dei quarti, non ti preoccupare, mi ha dato già le capre due, quindi me li controllo uno per uno. Se ci sono canali da mettere ad esempio nello standard, nel coso lì, nel format da cambiare, capito? Fare magari 10 canali o 13 canali normali e 10 li metto alti, capito? Che superano il 23. Capito? Quindi metti tutto da parte, non lampassi mai nulla tu. Ok, va bene, vediamo. Cosa c'è? Ricordate che io sono impegnatissimo. E anch'io devo mettere a posto la stanza, dai. Chi c'è sopravvissuto? Io ci sono. Anche mio! Vabbè, non parlate, io sto cucinando e non sento le voci. No, perché poi tu dici, addormenti e bruci tutto quanto. Quando scendi a noi ti conciliamo sempre il sonno. Forse si sta calmando la propagazione, è il canale più libero di prima. Prima era una... non scendeva mai sotto il 9 il segnale. Oh Marco, ma perché non hai guardato ancora la foto? Chi me... sto facendo la pasta al forno. Ah, per quello, va bene. Poi mi dici se il segnale è salito da te o se è sempre lì, perché ho messo l'antenna proprio davanti a te. E sai cos'è? Sto usando quello con i LED. E qua praticamente a Sassari sono tutti 9 più 30. C'è tre LED, più 10, più 20, più 30, no? Non va oltre. Dovrei guardare con l'altro. Eccole! Ehi, Daniele, l'hai visto? Bello? Ti è piaciuto? Bello, Claudio, nuovo. Infatti ti ho fatto la foto proprio per vederlo bene, il legno è nuovissimo, veramente molto bello. Guardi, ho passato il panno col pronto, te lo ricordi il pronto, quello per uscire ai mobili, solo con quello, e non ho fatto altro, è veramente molto bello, poi funziona alla grande, e sto usando quello. Quella è da vetrina. Gianni, Marco, datemi un segnale. Da Marco ero 9.30, liscio ero. Vuoi segnale da me? Ma io non te la do da lì, perché questo Smith non è molto affidabile. Lo sa anche Marco, lo Smith del 2009 è sempre così, non è molto affidabile. Marco, dammi un segnale tu. Ehi, Daniele, sto usando uno Smith a LED, però quelli di Sassari sono tutti 9 più 30, tutti. Guarda adesso, quanto è? Quasi 9.20, Daniele. Non cambia, Daniele. Cioè, qua 9.30 è il massimo, c'è 3 LED, più 10, più 20, più 30. Già liscio eri 9.30. Guarda adesso, sono... Claudio, guarda adesso, sono attaccato, quanto è? Il più lontano, dai, il più lontano chi è? Io sono. Scusa, Daniele, che ero al telefono con Massimiliano. Ok, dai, va bene. Ho messo a posto tutto, già va bene così, già va bene. Sì, Daniele, ho tolto l'antenna da quel lato dove era la manta volata strada stamattina, mi sono messo, ma trasmontare e metterla ci ho messo mezz'ora, perché l'ho tolta intera, l'ho spostata, avevo già messo la qualificazione, già pronta. Adesso devo agganciare un tirante perché devo tirare su di altri 4 metri. Ok, quindi le sto mettendo dei tirantini, però ne ho due soli e allora ho lasciato stare così, dai, la tengo più bassa. Poi lunedì aggancio i tiranti e la tiro su, quindi sono 2, 4, 6 metri. Prima era 2 metri, 4 metri in più, dai. Però è in mezzo tra le direttive e la verticale multibanda, capito Daniele? Già ho capito Claudio. Qua sei a segnare originale prima che mollassi la radio, dai, ai vecchi tempi. 9.30, perfetto. 9.30 sei tu, alla grande, va bene che va bene, dai. No, ma non ho dubbi, ovunque la sposta l'antenna, l'ho fatto per mia comodità, perché è più vicino al commutatore, praticamente alla centralina del commutatore elettronico, ho eliminato circa 15 metri in cavo, capito? Adesso dall'antenna alla centralina c'ho 4 metri, 5 metri di H1000, prima ne avevo 15 metri, così quello me lo conservo se serve per montare qualche altra antenna un po' più a distanza. Beh. Va bene, sì Marco, ho visto il messaggio, ottimo per la truppa. Bene, la Lecce cambia. C'è Lecce in linea, prova a chiamarlo, Claudio. No, mi sente a me Lecce, no. Avanti Lecce, buonasera, Sassari ti ascolta, cambio. Amico di Sassari, qui è Lecce, stazione. Hai detto Courier, operatore Antonio, io ho una radio della Courier, forse la conosci bene. Ciao Antonio, buonasera, Claudio Sparviero da Sassari. Ciao Claudio Sparviero. Antonio Lecce Gulliver, non so chi in Courier. Ah, Gulliver ha detto, vai a Courier. C'è un gruppo di amici qua, te li mando avanti e vediamo se li ascolti, ok? Avanti Daniele. Sì, Caparrogio, dai, saluto l'amico di Lecce. Se vi copri 7-3, una cordialità, aspetta una di mano, dai. Avanti Marco o Gianni. Ehi, allora, vado io. Ciao l'amico di Lecce, ben sentito, cordialità. 7351, l'operatore Gianni Doppio Lu che ti super cordializza. Avanti. Gulliver, hai sentito Gianni Doppio Lu da Sassari? Sono al telefono, dai, ci sentiamo, ciao ciao a tutti, arrivederci, grazie dei controlli Marco. Marco, ricordati la foto di mandarmela, che domani non lo fai. Ciao Daniele, ci sentiamo più tardi, dai, che devo fare cosa? Che devo mettere la posta qua e poi devo portare anche il cane, ok? Ciao. Anzi, sembra che mi sia staccata l'antenna. Oh oh oh. Sì, Gulliver, ci sei ancora? Cazzo, hai detto Gulliver, non gioco. Vabbè, dai, ciao Gulliver, fate tanti saluti da coso, ciao. Attenzione, sul canale 10 c'è rimasto qualcuno? Tutti voi. Tutti boccheggianti. Allora, stavo cercando quello schemino da mandarti. E ce l'ho, ma come sempre, quando cerco la roba nel marasma delle foto, non lo trovo. Ma come hai segnato, qualche freccia, qualche cosa per riconoscere? No, è uno schemino colorato. È una curiosità, sotto lo Smither c'è una specie di adesivo Proxel rosso, smaltato. No. Ah no? Dammi un indizio, sotto la manopola delle bande cosa c'è scritto? Buonanotte. Dimmer. E allora è lo stesso. No, da me c'è ancora il coso Proxel, perché è importato dalla Proxel questo qua. Può darsi l'abbia tolta anche il precedente proprietario. No, non penso, non ha toccato nulla, il ginetto non ha toccato nulla. che l'ha lasciato, non ha toccato proprio niente. Ascolta, ma dove, sopra o la parte della pancia dell'apparecchio trimmer? Dove c'è la colonnina, Beh, lato componenti ovviamente. Cazzo. E ma tu Natalino lo sai, è diverso dal tuo questo. Ho detto che è così. Adesso ti manda la fotografia e ci fa vedere in che posizione è messo. Ti dice il numero che è, così non sbagli. Perché il mio non c'è scritto niente, c'è scritto una sigla e boh, capito. E poi quello che ho maneggiato io è, guarda, la lente mi sono dovuto mettere, perché è microscopico. Natali. Oh, chi è? Claudio, bene, mi ascolti in radio? Eia. Va bene, grazie. Ciao. Attenzione, canale 10, ascoltate l'Isola Sarda, cambio. Mandato. Allora, AM Modulation VR14. Non sbagliare. Poi quelli a destra sono la potenza. Poi c'è l'SSB e LC per la potenza NSSB. Comunque, AM Modulation VR14. Se corrisponde dentro è quello lì. Comunque Natali, da te c'era scritto V501 solo oppure anche AM mod, o meglio A mod. Sì, non me lo ricordo. Non me lo ricordo. Bisognerebbe che guardo nel telefono e vedo un po' a tema. Che cavolo, l'hai fatto 2 dì fa, tra virgolette, già dimenticato. E la vecchiaia. Che casino, provincia di Ragusa. Allora, senso, dunque, orario, tanto arriva al fondo corsa e non ti sbagli, senso orario tutto aperto, senza forciare. Attenzione, Ragusa, se ascolti l'Isola Sarda, cambio, la città di Sassari chiama. Si mette un altro apparecchio senza antenna, col volume a minimo e le cuffie nell'apparecchio senza antenna, e si ascolta e vede se è alto o abbassa. Purché le prove le faccia col mic normale, cioè almeno ti regoli meglio, mic normale e vedi le differenze. Pappa, pappa. È proprio così. Aspetta che guardo Marco. Qua è un po' diverso, è diciamo analogo ma non identico, perché la scheda è più piccola della tua. Attenzione, canale 10, l'Isola della Sardegna, città di Sassari chiama, cambio. Ma Tino c'è qua in ascolto, Tino! Stavo a fare di non rompito le balle. Tino! Oh, Claudio, stai chiamando? Ehi, ho detto passa al 20, facciamo... Mi fai vedere che tipo di ecco, passa al 20, che qua ci sono loro che stanno... che devono fare il QSO a lunga distanza, vai, vai al 20. Vai. Ciao a tutti. Ciao Tino, ciao. Ciao. Beh, forse hanno questi di ex. Mi siete ammosciati, io sto aspettando che raffreddi la pasta al forno. W2FA SQ, o no? Ma non veramente. AMFM, la potenza, low power. No, low power non va toccato. Comunque tu non toccare altro, cioè tocca solo la M. Allora ti spiego, il low power serve per gli apparati, AMFM low power, per gli apparati che hanno la regolazione dei watt. Quello invece non ne ha e quindi vale solo la MFM High Power. VR13, sì, è la potenza in MFM, invece la potenza in banda laterale sarebbe l'SSB ALC VR12. Ricordati, tutti quelli segnati in rosso sono cose inerenti alla trasmissione. Guarda che c'è la leggenda in basso a destra. In basso a destra, transmitter alignment in rosso, receiver alignment in verde e PLL alignment, che quello non tocca mai, per carità. Non toccarlo mai il PLL. Bene. No, vabbè, tanto in FM non lo metto, perché la radio va normale in FM, non va troppo forte. MFM low power, VR14. Comunque sai che Gianni, in alcuni casi la taratura FM, siccome è fatta dai giapponesi o quello che dai cinesi in modo porchettino, va ritoccata un po', però se va bene già di suo non toccare nulla. Dimmi Natali. C'è scritto AMOD, 2501 AMOD. Sì, è come qua, esatto, AMOD, che vuol dire AM Mod Modulation, Scappellation. Ho dovuto guardare sul circuito. No, ma infatti lo sai che io appena comprati gli apparati facevo le foto dettagliate in modo da vedere le eventuali impostazioni di potenziometri e tutto. E comunque lo facciamo anche per il forum, così per chiunque voglia saperne qualcosa. Gianni, purtroppo le foto dell'apparato aperto non ce le ho. Ce le ho sull'hard disk, però bisogna trovarle, chissà dove sono. Comunque se le trovo te le mando per... Vabbè che, cioè, una volta che lo apri lo vedi, fai le foto anche tu. Falle col flash dettagliate, un po' inclinate, in modo che non faccia l'effetto specchio il PCB, capito? Il circuito strampato. Vabbè, ma se so che devo agire su VR14, lo metto al massimo, buonanotte, fatto di più. Non tocco altro, non passa, neanche troppo detto con questo. Sì, lievemente saturo, ma si è attaccato adesso. Eia, so che chiamano questi qua, ogni tanto su lì ci chiamano, dalla provincia di tutto Sud Italia e poi, no? E poi li rispondi o non rispondono. Perché manca la propagazione magari, di quella, sono scritti in corti magari. Infatti, quando quello che mi ha mandato la QSL è una telefonata, sono stato più di mezz'ora a parlare. Non mi scattava l'affare del il form da compilare. Il form, per la QSL. Sì signore, ma una telefonata, guarda, dal Lago Maggiore era. Forse più di mezz'ora. Mi voleva far parlare con uno di Cagliari, ma non mi sentiva quello di Cagliari. Per lo Smith. Allora, ripilogando, lo Smither segnava bassissimi, tipo Claudio arrivava 9.5 appena comprato, no? Cosa ho fatto? Col K mi sono basato su chi arrivava a Santiago 9 e il 9 l'ho messo uguale, però tutti i segnali sotto il 9 vanno interpretati. Io mi sono fatto la corrispondenza col K, quindi il 9 gliel'ho tarato giusto come il K, però tutti quelli bassi sono bassi. Per esempio, quando lo Smither segna Santiago 1, in realtà è Santiago 5, sul K l'ho verificato proprio. Poi i segnali dopo il 9 c'è poco spazio, cioè... Alla fine chi arriva più sul più, dopo il più, prima, poco prima del più, è tutto uguale, c'è un millimetro di spazio che controlli possono dare, vabbè. No, ma dico, se non arrivare al 9, diciamo che è troppo avanti, è avanti. Sì, appena comprato era ancora più avaro, era drammatico, drammatico. Adesso te ne racconto una. Ti ricordi il famoso Albrecht 5008, quello preso da quello di Lucca, quel farabutto? Allora, appena comprato, sono andato a piazzare i segni e tu arrivavi a quello smitterale del Santiago 5. Cioè, dovevi arrivare almeno 9, no? Ho fatta la comparativa con un altro apparecchio a fianco. L'Albrecht 5008 era di quelli digitali, no? Arrivavi 5 a piazzare i segni, ho detto no. Infatti l'ho regolato, poi l'ho regolato a 9 come il K, in poche parole. Cioè escono di fabbrica con tarature inesistenti praticamente, lo sai, buttati così come escono. Ma per regolato c'è un dimmer? Guarda il mio schemino, c'è tutto lì. Puoi regolare anche la trasmissione, puoi regolare quanto sale in trasmissione, anche la ricezione ovviamente. Addirittura la MFM sono separati dalla SSB. Cioè se tirchio in AM te lo regoli in AM, se tirchio in SSB te lo regoli o viceversa se è troppo abbondante, capito? Tutte lì sono, guarda, receiver sono quelle voci segnate in verde. Questo digitale non si può registrare, no? Oddio, non mi ricordo, forse sì, solo che ho visto che il 9 è abbastanza fedele, cioè chi mi arriva 9 col 3009, che era stato tarato, poi che si sia staratto io non lo so, e anche con questo, col 5005, chi arriva 9 al 3009 arriva a 9 col 5005 e con tutti gli altri, capito Natali? E perché questi arrivano tutti in fondo scala, tu arrivi in fondo scala, Gianni in fondo scala, e prima non era così. Come prima? Prima di cosa? Vabbè, affettiamo. Ti sto dicendo, tutti in fondo scala. È raro che qualcuno mi arriva di meno. Vabbè, che paragone ti posso fare? Cioè noi siamo vicini in realtà a me. Per esempio poco fa, quando Tino ha risposto che ha salutato, lui era 9 più 10. Ascendeva la prima attacca dopo il 9, capito? Poi c'è il più 20 e il più 30, e qua poco puoi fare. Giustamente lui arrivava un po' più basso perché è più distante dalla parte opposta di Sassari, anche un po' fuori, no? Di Sassari. Purtroppo noi siamo vicini, anche se siamo chi a Carbonazzi, chi a Santa Maria di Pisa, siamo vicini, troppo vicini comunque, Natalino, non c'è nulla a tarare. E noi sì, io sto parlando degli altri un po' più distanti, vediamo un po' quanto mi arrivano. Eccime! Dai Daniele, riprendi tu, ti rilancio, vado a mangiare, rimango all'ascolto, vai. Buonasera Natalino, ben sentito. Ciao Daniele, ben sentito anche a te. Daniele. Uè Danielito. Uè Gianni Gheddu. Mi sono sentato un attimino, stavo facendo alcune cosette giù. Stava gala. Oh via. Come sta arrivando il segnale lì in una zona tua, Daniele? Già, qua ti fermi. All'inizio del più del 30. Pappagappa, la radio com'è Daniele? No, la radio è buona, dai. Io ho dovuto sistemare un attimino il palo perché mancava un elemento per fare tutti gli elementi del palo, diciamo, dai. Perché alzando la stai Daniele? L'ho alzato gli altri 2 metri, mi mancava l'intermedio per finirla. E poi la cosa non c'è andato, perché se ce la prima da... Ma non per lui, c'è quello che c'è passato al cimitero. No, già ti ho capito, già. Sono andato a Fusaro, stamattina me l'ho preso. Ma di quello tubo di colore leggero? È sempre tubo leggero, K di Rosmetro, in attesa di sistemarlo bene. Perché vabbè, vi siete usati, c'è un casino, che è tipo leggero, tanto qua, non so se lasciate, ma quello pesante, tant'altro. No, il mio è antenna normale di antenna, dai. Cava, cava. Adesso stiamo vedendo un po' le... alcune cosette già stanno funzionando bene, dai. Cava, cava. Ma i radiali poi mesci ce l'avevi da lì? Cosa già? Sì? I radiali all'antenna, mi risultavo che avevi tolto due o tre di radiali. No, io adesso ho l'energy 5 ottavi già, quella l'ho data. Ah, l'energy c'è. Ed è certa radiale la energy, no? No, c'ha tre radiali, però per la posizione dove è sempre la stessa, va più che bene. Ci stanno bene i radiali, dai, riesci a metterlo lo stesso. Sì, sì, non ho nessun problema già, perché riesco a metterla... a scavalcare la mantovana tranquillamente, capito? Come quella che ho io. Ma sul tetto non avevo mai pensato di metterla da lì? Sono una vita che ci sto pensando, esatto Natalico, è quella che c'hai tu. Cioè, ma sono una vita che sto pensando, avevo casino a metterla perché non c'ho molto ancoraggio, capito? Gli fai un coso in cemento, so. Adesso vediamo già se riesco a partire dalla mansarda dove era prima e tirare su tutto il palo è l'ideale. Stai un po' in estate. Come vi stavo dicendo, ma che cos'è? Tetto a tegole o a terrazza? A tegole. Guarda adesso se sta innescando, mi sa di no. Ora. Adesso. Io pensavo che fosse di quelli, io faccio sempre i calcoli che rispetto sia come il mio. Fosse a terrazza, guai. Già va bene così, già. Poi volevo avere le stazionarie. Oh là. No, già non ce ne sono. Anzi. Lasciavi lì. Così. Aspetta, a te. No, vanno bene, dai. Hola. Vanno bene? Vanno benissimo, di lusso. Esci a vedere. Scappa di rosmetro, contro i fatti. No, dai, portiamola a due. Calda, calda. Quanto è altro che tre batte. No, ma... sono 2 watt, beh pomponio, 2 watt tondi. Modulati? No, modulati non lo so perché questo fa picco. 2 watt portante muta. Vabbè comunque come fare se ne ho vinto? Beh pomponio. Daniele, come stai? Tutto bene, dammi un segnalito, tu che c'hai l'apparecchio che lo può dare. 925, copicchia 928, radio 5. Aspetta un attimo. Ora, ecco, adesso ho attaccato anch'io e sono sceso di watt, adesso dovrebbe essere chiara. No, va bene, Pompo, io sono liscio, con 2 watt. Meglio così. Io sto pompando, siamo a 70 watt adesso, una cosa del genere, l'ho fatto con 3-4 watt. Aspetta, guarda, se attacco la succede, aspetta. Guarda adesso quanto è che sono attaccato, quant'è? 9,30. 9,30 con 2 watt di entrata. E tu mi stai arrivando 9,25. 25. E adesso quant'è? Aspetta un attimo. Il segnale è aumentato quasi 9,3, tanto è. Porca miseria, questa cosa innesca. Però la radio è satura, infatti confermare anche da Gianni, occhi è rimasto in ruota. già lo so che è stato, aspetta. Calo di va. Adesso dovrebbe essere a posto. Quando è stato preparato, due passi di alfa senza filtro, le. Sì, ciao. E beh, Fabietto. Allora, abbiamo visto il filtro, sto facendo con un watt, sto facendo con 60 watt, mi sembra potete smettere, aprite la finestra che vi parlate a voce. Daniel! Ci manca nessuno. Adesso ho staccato. Abbiamo staccato. Abbiamo fatto bene, l'hai visto io con i miei 24 watt, l'antenna al centro terrazza, guarda com'è. Ah, oh, me sto godendo. Adesso vado su 45 a farmi di ex, ciao! E parli con un muro. Con tutte le persone che mi rientrano, tanto la mia voce vi arriva dopo 5 minuti. Come minimo sì, eh? Si spieghi, aspetta che metto l'antenna io sul secchio. Così ve lo miglio canale 5. Italia 1, delle 4. Avanti Daniele, fai girare, non so chi ci sia rimasto nel canale. C'è la Marco, mi sembra, ma quello Condor. E poi gli altri, boh, non mi ricordo più. Mi sa che Marco è andato a mangiare, a fare una carichetta, poi c'è Gianni e noi tre. Allora, avanti Gianni, intanto io sto cucinando su le cosce di pollo, sto cucinando. Cappa di rosmetro. Già va bene, già va bene. Quando sono cotte chiama. Aspetta, faccio un attimo di bianco, arrivo subito. Tempo, guarda, le 8 meno un quarto sono cotte, te lo dico io. Capo la fiore, almeno questa notte quando toglio se ne fugge anche il cane. Allora ho capito perché ti sei deciso di raduare la mano qua. Allora, perché ogni tanto scarico io, capito? E quindi ne scendo i radiali di notte. Fabio! Bella! Che bella voce che c'hai oggi, arrivi chiaro, chiaro, chiaro. Oh, Daniele! Voce! Cavagama, dai, sto uscendo con... Adesso, come va la radio? La radio va bene, che mangiarsi di Claudio non mi va bene, si incontra ogni tanto. Claudio! Cosa c'è? Chi è che mi chiamava? Non ho capito. Cosa c'è il posto della radio? Mangiarsi? Eia, sempre mangianatti c'ho io. Io sono il numero uno in assoluto, in tutto e per tutto, gli altri sono zero. Oh Daniele! Ecchime! Ma lunedì me lo porti quell'altra, così provo il microfono della gay. Sì Claudio, non è neanche domani mattina lì, o domani pomeriggio, intanto sono di turno. Allora mettetelo in macchina Daniele, così provo il microfono suo a vedere se va bene, dai. Perché c'ha le connessioni diverse ed è l'unico microfono delle gang che non ho provato. Se no mi si gira nel bar e tocca comprarmi anche un base della gain e così ho fatto un play. Non altro, perché lunedì mattina sono smontante notte, capito? E domani magari riesco ad avvicinartelo. Va bene, dai, ok. Avanti Fabio, fai girare, dai, siamo qua. Dai, io faccio 2 minuti di bianco. Cazzo, Claudio, va a passare ogni volta che entri, che mi spacchi lo Twitter. Se la passo un'altra un po' devo portare la parte in cantina, mi servono altri 11 metri di 58. No, questo non è quello di ieri notte, no? Questo è un Royce che ho ritirato stamattina. Il microfono è un Turner più 3 e l'antenna è la Mantova. L'ho spostata dal lato nord al lato sud, cioè dal lato sud al lato nord del palazzo, perché ho eliminato una 15 di metri di cavo, l'avevo messa lì in fondo perché quando giravo le direttive mi toccava, adesso la direttiva grande l'ho smontata per manutenzione e quindi ho messo l'antenna lì, capito? Però la lascio lì, tanto penso di non montarla più la 3 elementi, quella grande, lascio la 3 elementi, la piccola e la 5 elementi. Va bene Fabio, va bene. Non ho visto neanche il tuo segnale avessi aumentato, beh. Cioccolatini ti ho fatti sentire ieri notte, te li hai anche mangiati tutti, non me ne hai lasciato neanche uno. 8 watt sto uscendo. Quanto fatto? 9,40 quando era con 50 di picco. 8 watt, quello che dà il Royce. Ola, sono in scala, aspetta, non che non sto sbagliando io. No, no, 8 watt, 10 modulati, dai. 40 per 4 e 50. Vabbè, tu sei in via degli astronauti, mi sembra. L'antenna è un tiro di schioppo, nel senso che adesso è molto alta, C'è 2 metri in più, però lunedì ne metto altre 2 metri in più, quindi va a 6 metri di altezza, oltre l'avevo detto, perché devo superare quando gira la tre elementi, capito? Quella piccola, perché sennò va, sfiora appena appena, invece gliela metto un pochino più alta e quindi la supera, capito? Fa fatti i conti di quello che ho fatto, fatti i conti che qui sull'antennina della finestra sta arrivando praticamente prima di 30 che fatti di 40, più o meno con 5 watt, con l'apparato vintage che avevi, 30 che fatti di 40, sì, 40 che fatti 50 e forse per il più. Perché questo è un vintage, questo è un Royce degli anni, io non ho il tuo contatto, se non te l'avrei mandato, l'ho ritirato stamattina, che da Roberto abbiamo montato un'antenna verticale e poi siamo andati a ritirare questa radio. Ah, io l'ho sentito, anche Roberto lo stava parlando stamattina, che quindi da lui era contento di quella multibanda che alla fine fa bene anche questa frequenza, era molto contento, dice che prima era solo appoggiata. No, l'abbiamo messa a posto, tirata su, tarata, tutto provata. Va bene, contentissimo. No, vanno bene, io c'ho tutto PKW. Gliel'avevo detto che una delle migliori verticali era quella lì, capito, della PKW, per materiale e per tutto. E ha preso quella e non se ne è pentito. Io l'esperienza l'ho fatta sul campo, ho sempre consultato chi ha più esperienza di me e la metto a disposizione degli altri, poi chi la vuole prendere la prende, chi non la vuole prendere la prendo nel culo. Avanti Antonio. Lo sapevo che in Basile c'era una radio matrice, si chiama ARA PP5ASN. Cazzo, sai quanti anni c'ha? 100 anni c'ha. E sta usando, aspetta, un coso, un cable sta usando, 4,40. ARA, già lo so io, sì, se ve lo dicevo te l'avevo detto io. Guarda, non si perde, Antonè, non si perde, ogni volta che ci sono i contest lì è sempre attiva, sempre attiva, sempre attiva, capito? Sempre attiva, è una persona, un bel grande. Comunque vi do una notizia per chi l'ha conosciuto, sicuramente Gianni in radio, tu Antonello, Marco, è morto Giuseppe di Alghero, 96 anni. Giuseppe chi? Non me lo ricordo più io. Ah, poveraccio, quello che mi aveva fatto la stazione. Sì, quello che avevo fatto la stazione proprio. Adesso mi ha consultato stamattina proprio perché c'è il trigesimo, però io purtroppo non ci potevo andare. È molto nel... Io l'ho saputo l'altro giorno. E praticamente è morto durante la quarantena, capito? Quindi c'è il trigesimo. Ci dovevo andare ma non posso. Ci andrò la prossima settimana, appena mi libero, perché devo, la nipote appunto mi ha detto di salire e portare via tutto quello che c'è. E vediamo. C'ha delle belle cose che gli ho dato, c'ha un Gibson base molto bello che gli ho fatto comprare io, c'ha un bel lineare della ZG, c'ha altre cose, adesso vediamo, mi farò un'offerta, vediamo, perché il regalo questa volta non voglio più niente, già ne ho troppe di cose regalate, di persone che mi sono state veramente amici, e le mogli me l'hanno regalato, sia quello di Pinangelo, sia quello di Coso, di Angelo Plifo, che forse voi non avete conosciuto, vabbè, comunque, va. Io mi porto i soldi, poi glieli lascio sopra il tavolo, non me ne frega un cazzo. Fai bene. Capito? È una cosa buona quella. Vabbè, non lo sapevo per niente che era Giuseppe quando parlava, abbiamo parlato due o tre volte, ho parlato con Giuseppe quando ha sistemato la stazione, mi dispiace un bel, mi dispiace. Lo so, 96 anni, si è aggravato durante il periodo del coronavirus, praticamente della quarantena, e non ce l'ha fatta. Vabbè, ha avuto una broncopolmonite, la nipote mi ha detto sicuramente causata da questo virus. però infatti ho detto, ma sono sicuro, posso venire? No, stai tranquillo, abbiamo chiamato l'ASL, hanno sanitizzato tutta la casa, sanificato tutto, non ti preoccupare, ma in ogni caso vieni con la mascherina e i guanti. E beh certo, cartosa vengo, i mondandi a canottiera, riprendi Gianni, fai girare. E io che ho fuori a sanitizzare il teleradio, sto qua, lasciami che la butti a casa. No, tocca lì con i guanti, mi porto alcol, mi porto tutta la roba che mi serve a me, perché questa cosa pesce, l'ho comprata da una persona giovane, più giovane di me, però come sono arrivato a casa, guantini, tutto, l'ho tutta igienizzata, tutti i coperchi, pulita col pronto, tolte tutte le manopole, pulite, già l'ho vista Marco la foto nuova nuova. Dimmi Marco, cosa stavi dicendo? Sentite un po' se ho dei rientri, tipo rientri RF. No, per me no, per me no. Fabio, riprendi, arrivo subito che mi stanno chiamando da telefono. Sì, neanche per me Marco, tutto pulito. Ragazzi, vi lascio, faccio appena di ascolto, quindi stacco un attimino, toccherà cenare, caricare le batterie e poi torno a disturbarvi. Ci vediamo dopo, dai. Marco, io ho delle uscite. Ehi a Fabio, come detto Natalie? Che c'ho delle uscite io ogni tanto. C'hai delle uscite colorite? Perché sono le mie tre fagioli. Ah, sono uscite gas di scarico sul retro, così è. Ehi, se ne è fuggito anche il cane. 2020 Marco, ciao. Aspetta, Hola, hola. Non cambia nulla, va bene, va bene. No, ma non è rientri Marco. No, perché sto provando la scarpetta, volevo vedere se la tollerava questo apparato. Ecchine. Giusto fagiolo, Daniele, tu che smetterai? Io c'ho la smitta al baracchino dall'87. Guarda se c'è differenza, osserva, guarda, ecco. Passi da 9.25 a 9.30, aspetta che c'è una bassa che mi sta arrivando. Anche con questa Marco, anche con questa, 9.30, 9.40 mi fai però a me, come negli altri radio, quindi già è giusto. Sai perché? Stavo provando se la radio digitale, no, quei baracchini digitali tolleravano linea retta oppure aveva rientri. No, non è rientri, già va bene, ottimo per la truppa. La radio non peggiora, no, la modulazione, l'importante è che resti pulita, perché se si sporca quella è finita. Altro che pulita, sia la radio che tutto, capito? Tutto pulito. Vabbè dai, io mi allontano che oggi ho fatto anche troppo. Insomma, al mattino Marco devo scendere al bricco, ma per forza, perché se si mette poi vento, oh, non fa. Devo prendere due mazzi di nylon, bello robusto, finirmi questa antenna, devo fare una correzione, ma leggera leggera sulla... quanto c'ho? E proprio sono malato, c'ho uno quasi 1,2, però non ne avevo niente, quindi le voglio portare nuovamente a zero, dai, ne faccio una correzione sulla spirale, perché l'ho tolta stamattina, l'ho pulita, rimessa, forse non ho rispettato la misura, occhio l'ho fatto, domani la faccio nuovamente col metro, dai. Va bene, vi saluto tutti, buona cena a tutti, se coincide a più tardi, se no domani, ciao, vai Natalie. A te Cla, canale 20 dopo, vai. Eia. Cappa, ciao Cla, le pruse. Eia, ciao Claudio, ci sentiamo. Bene, chi c'è rimasto qua? Daniele, Natalino, Gianni? Forse Gianni sta operando a cuore aperto. Fabio anche c'era, Fabio. Appunto, c'era, adesso non c'è più. Niente. Oh, iaia. Pomponio? Pomponio? Eia! Eia, beh, oggi cosa hai fatto? Cucinando sto qui. Cucinando, sto cucinando. andato in terra, fatto i piatti, eccetera, eccetera. E dopo devo lavare il giampiero, mi si può venire a fatto qui. Sono tutto il giorno rompendo le balle qua a casa. Per carità. Ho fatto la spesa, tutto. Ecco. Avanti. Buonasera a tutti. Orario la stessa zona. Sicuramente un controllino fa anche se possibile, ti segnalo. Sono brevetti per te, Marco, ciao. E in questo che faccio adesso, sì, a te cambio, concludo, buonasera. Sentiamo dove sei, Radio 5, Muranio. Ah, ok, ma adesso noi, adesso, sicuro che... Ah, giù un peso di fuoco adesso, c'è un abbattimento da Claudio, boh. Allucinante. Non la guarda che siamo l'antenna, ciao. Ricky, ma... Contorio? Ehi, come ti sto arrivando adesso? Adesso, guarda adesso come ti arrivo adesso, come ti arrivo adesso, e come ti arrivo adesso, uno lo troppo andato. 9:20. Ah, ok, va bene, grazie, Popo, leggerissimo. Cappa, buonasera, ma ripresi tu, Fagiano, vuoi fare vedere anche Marco, ok, buonasera, Cappa Marco, sono tutti così, ripresi tu, Popo, Fagiano, vai. Avanti, Marco. Ciao Francesco, ben entrato, e qui era circa 9, passato 9 più 5, questo è uno smitter a LED, quindi un po' difficoltà a interpretare, a dare i controlli, però grosso modo la differenza è sentiva, è che diciamo quando attacchi è leggermente saturo, ma leggermente. Ah, ok, perché la situazione non può essere. Siamo lì. Invece quando sei, diciamo, liscio, la radio brillante, bella amplificata, buona timbrica anche. Ok, perfetto. E sto dando poca roba, sto dando una piccola tonica, non di più, una piccola sorrottaria da lì. Ok, va bene, ripeti, Marco, ripeti, avanti, vediamo che c'è sul canale. Oh, Francesco, mi puoi dire la modulazione, se è buona? C'è l'essenziale che sia chiara, capibile. Capibilissima, caro, capibilissima. Tutto sta arrivando a Santiago Rosso, e radio 5 perfetta, naturale perfetta, guarda. Una radio, diciamo, stereofonica, ti ricordo tu, sta arrivando benissimo qua. Ok, sia il segnale che sia il radio, a te. Ti spiego, sto usando un Alfa Lima, piccolino, guarda la differenza, guarda, ecco, così sono 3 watt, 70 watt. Ok, la relazione è questa roba, da 7 vai a 8 e da 8 se li aspetto quando va, ok, la radio sempre 5 perfetta, non carro la niente, né quando stacchi, né quando stacchi, nulla, è perfettissimo, anche a posto. Adesso faccio girare, vediamo che è entrato avanti. Buonasera. Ciao Giulio, si vedeva la differenza da te, la timbrica naturalmente, vabbè, ho avuto già conferma, rimane pulita la timbrica, quello è essenziale, che sia pulita la voce, perché se avere segnale e poi radio brutta non va. Ciao Giulio, sono Marco, sono Marino, ciao Marco, ciao anche Antonello, ciao Francesco, non so chi c'è altro, ok, avanti un attimo. Ah, tu sei Marino, credevo fosse Giulio. No, sono io. Eia, modulazione solita, vedi, facciamo l'appello, chi c'è rimasto qua? Gianni, Daniele, Fabio, chi altri c'è? Ci sono io, ma me ne sto andando in quei retti, dai, saluto tutti, quei retti per me, dai. Ciao Natali, buonasera. Ciao Marino, buonasera. Boia, sempre triste a Natalino, boh. Come faccio a Natalino? Non si fa male. Adesso dai. Va bene, io sto soffrendo il caldo qua, sono in pigiama e sto soffrendo il caldo, porca miseria. Devi smanare la cua nuda, la cua nuda sta a posto. Mi sa, adesso bisogna stare in pantaloncini e bocco. Questo è un pigiama lungo ancora, diciamo. Va bene, dunque tutti sono spariti, mi sa che... E che vado anch'io. Ma c'è Antonello, Antonello! Sì, Antonello qua, viene, viene qua, è come un fantasma. Ah, così, Antonello colpi, eh beh, Antonello, ce l'hai attaccato Claudio, no? Perciò prendi i colpi. Sì, io bisogna che mi riattrizzo dopo a piazzare la antenna. Qui, la bagaccia di Giuseppe, caffonato, cioccolato, al cane vomitato. Buonasera, come va? Certo, sto pigliando un colpo, non hai preso in vita mia con Claudio. Quel baracchino che bisogna piazzato, lui bisogna cazzo le camere, adesso mi metto dopo 5-7 dì, almeno oggi vedi a colpi. Torino, poi come andiamo? Ho capito. Come andiamo? Già vai bene. Oh, tu come va? La signora come sta? Ti ho chiesto, come va la signora? Antonello, altissimo Marco. Già va bene, comunque, sei 9.25, prova. Ti ho chiesto, va bene, lo so il segnale, Marco, Antonello. Volete, come va la signora? Si sta riprendendo, sì? Sì, sì, già sta mangiando, sta riprendendo, grazie a Dio. Adesso appena fra ragione ti chiamo sangue, ti porto un po' con la commissione, non è? Così vengo con la signora. Bene, bene, avanti Marco. Cos'è questo rumorino che ti porti appresso? Una specie di ma è doloroso, non lo so, però la vento da vicino, quasi si al vento, Marco. No, sembra rumore tipo Antonè. Alternata come tipo di alimentatore che non ce la fa tanto. Oh, Antonio, lo senti tu? Cioè, senza processore, ecco perché è così. Metti processore. Adesso attacco. Adesso attaccato. Guarda adesso un altro. Metti portante muta. No, no, io sento un rumorino sotto. Che sia la ventola dell'alimentatore. Ah, quella è, caspita. Sembra più un'alternata, invece di pernacchietta, ecco. Ce l'ho un metro staccato dall'apparecchio, Che casino questa propagazione, mamma mia. Guarda, come fa, se vedete te, Marco, mi stavo chiuso perché non si capiva nulla, C'era troppo casotto. Sarà bella come ti piace, ma a me come sei casotto, meglio, non mi piace. In FM, è in FM, ed è quello che manda quel suono, quella specie di sirena, per carità. È un casotto, vabbè Antonio, non sentirti se io, Claudio ti stavo già battimento, no? Sì, non ho capito. Cos'è Claudio, battimento ti sta facendo? Mi sta facendo battimento, che non ho mai avuto battimento così forte come oggi, capito? Dipende gli appari che sto utilizzando oggi, non lo so. Bene, bene, allora siamo sui soletti, Marco. Oh, Mari, non ti sento bene, è troppo rimbombante, cupa. Troppo casotto, sì. Guarda se va bene adesso. Sì, un tantino meglio, dai. Va bene adesso. Così, così. Ma la portante ti stanno mettendo, Allora, in FM, è in propagazione, quello che manda quella specie di sirena, continua. Ah, vabbè, ma già non disturba, non disturba, perlomeno a te. Io sono con tre basta adesso, dove vado? Che mi stavo chiamando, ciao Tino, l'avevi sentito. Ciao Antonio, ciao Marco, ciao Tino, ciao Tino, ascoltore, come detti per me, che mi stavo chiamando, c'è più risposta che mi sta fischiando. Ciao Marco. Ciao Marino, ciao, alle prossime. Ciao Marino, ciao. ciao Marina, alle prossime, ci sentiamo. Uia, che palle, devo uscire, non sono uscito, vediamo se mi rifaccio domani. va bene. Antone, cosa state utilizzando poco fa? Che ti ho sentito che non potevo entrare in radio, che stavo soldando. Sì, il CTE stavo usando, con l'A87. Il CTE? Ma è quello di Berito, sistemato l'hai? Quello di Berito l'ho acceso. Funziona, l'unica cosa è che quando schiaccio la portante fa tan tan tan tan tan, hai capito? Non... Il potenziometro in pratica ce l'ha cambiato, hai capito? Ma ormai ho conservato il vecchio che c'avevo dall'altro. Bisogna che vado ad accusarlo, se ce l'ha uguale glielo cambio e dovrebbe essere a posto lineare. Perché il relè scatta, non c'ha niente relè. Ho capito, va bene. Sto pompando sicuramente. Antonè, ma come fai con lo speedy? Lo speedy è valvolare, sì, a saturare tu. Come me lo spieghi? Perché io per il resto mi sta volando, capito? Quasi 20, infatti. No. Allora peso e ho diminuito. Infatti. Oh yeah. C'è uno che ha detto salam alek, leccamelo salam. Mi ha voluto questo con la sirena, mamma mia. arriva forte. Comunque Antone, tu cadi sempre nello stesso trucco. Non trucco, cioè gli dai troppi watt in ingresso, poi sei saturo, brutta, peggiora molto la radio. Non ci siamo capiti. Pilotaggio basso, guarda, Tino, dimmi se la radio ha peggiorato, guarda un po', adesso è attaccato, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, per niente, ma io sono con 2 watt, non ti credi, voi non ci crederete, io ho 2 watt di entrata. Break. Gianni, avanti. Ehi, dai, l'ho regolato, guarda come va. E tu perché questa modulazione è così strana? Massaggiando il mic normale? Marco! Ehi! Passa a io un attimino, allora, al 20.